Generator la mia Degne figlie d'un barone. Via silenzio ed attenzione. State il sogno, state il sogno a meditar. Bisognette il fosco e il chiaro. Bisognette il fosco e il chiaro. Un bellissimo somaro. Un somaro ma solenne. Quanto un tratto, o che portento. Sulle spalle accento accento, sulle spalle accento accento. Gli spuntarono le penne, gli spuntarono le penne. Ed in aria scivolò. E diceva, campanile, come trono si fermò. E diceva, campanile, come trono si fermò. Si sentiano per di sotto le campane a dindonar, dindon, dindon, dindon, dindon. Col cicicicciu di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicicciu di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicicciu di botto mi veniste a risvegliar. Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic

quando un sogno si intralciato, ecco il simbolo spiegato, quando un sogno si intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa, quelle penne siete voi, quel gran volo crepe addio. Resta l'asino di voi, ma quell'asino son io. Chi vi guarda ed è chiaro che il somaro è il genitor, il somaro è il genitor, il somaro è il genitor. E si fa regina, non è l'altra libera, e di nonno una dozzina tira fuori e bracerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Vedi lì si va regina, l'un dell'altro diverrà, e di nonno con la dozzina tira fuori a bracera, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, fertilissima regina, l'un dell'altro diverrà, e di nonno con la dozzina tira fuori a bracera, e la gloria mia sarà, e la gloria mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà. Che dite, quel principon, quantunque non conosca, sceglierà vindito sposa più bella, io cavo in svenimento. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Disceneri, metà del mio palazzo è già crollata, e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figlie, state in cervello, parlate in punta e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarvi, si tratta niente men che in principarvi. È deserto, amici, nessun risponde. Mm-hmm. in questa simulata sembianza le belle osserverò. Ne viene alcuno, eppur mi di speranza il sapiente all'idoro, che qui saggia e vezzosa degna di me trovar saprò la sposa. Sposarsi e non amar legge tiranna nel miglior dei miei giorni alla difficil scelta mi condanna. Vediamo. Una volta c'era. Oh, è fatta. Che cos'è? Che batti il cuore. Forse un nostro sonnino. Sì. certo. Dove sono? Qui non le vedo. Standi là nell'altre stanze, standi là nell'altre stanze, or verranno ad nostre mance. Ma di grazia, voi chi siete? Io sono e non lo so. Non sapete? Quasi no. Non sapete? Quasi no. Quel che padre non è padre, onde quelle da sorelle, era vedova mia madre, ma fu madre ancora di quelle. Questo padre è pieno di orgoglio, questo padre è pieno di orgoglio, qualche padre non è padre, onde quelle da sorelle, era vedova mia madre, questo padre è pieno di orgoglio. Sta a vedere che mi voglio, sta a vedere che mi voglio. De scusate, perdona, che cos'è? Questa voce che cos'è? A ponente da levante, a sciroppe tramontana, non ho calma su un istante, tutto tutto tocca a me. Quell'accento, quel sembiante, che mi ha preso su umana, che mi prende questo istante, c'è più bello tra di me. Da semplice scudiero il cuore delle femmine meglio svelar saprò. Dandini intanto recitando la principessa. Domando milion di perdoni, dica che sua altezza il prince arriva. E quando? Fra tre minuti. Tre minuti? Ah, figlie, sbrigatevi! Che serve? Ne vado ad affrettar. Scusi. Con queste ragazze benedette, un secolo e un momento, alla toilette. Che buffone! Qual fragor, non mi inganno, ecco Dandini. Thank you. giglio poi salta alla rosa dolce un fiore a cercar per sé fra le belle a giro per rivivio ne ho avute già tante e poi Good. allegrissimamente. Che bei quadri, che bocchino, che ciglia. Siete bontà e non la meraviglia. Già, tali spati, tale figlia. Grazie. Altezza delle altezze, che dice, mi confonde. Debole, vere figure etrusche. Dico bene, comincia a dirle grosse. Io resido da grande, grande, essendo grandi le vaspa. Ma il principotto che non vi scappi, attente. Or dunque, seguitando quel discorso che io non ho cominciato, o dai miei lunghi viaggi ritornato, ed il mio papà trovato che fra i ponte mi è capitombolato, e spirando ha ordinato che mi sta qualche ambiente si è sposato, son diseredato, fatto un'invita tutti vicinati, trovando buco delicato per me l'ho destinato, detto. E adesso prendo fiato, che la quenza norcina, bella ragazza, se vi degnate, inciambellate il braccio ai nostri cavalieri, il legno è pronto. Andiamo, eccellenza, non tardate a venire. Che fai tu qui? Il cappello ed il bastone. Ah, sì, signor. Perseguitate presto con i miei baronai, i magnifici miei quarti reali. Monti in carrozza e vengo. E pur con lei vorrei veder. Lasciami. La sgrida. Il tempo vola. Che vorrà? Vuoi lasciarmi? Ora la mia polvere. Vi si farà, vi si farà, vi si farà, vi si farà, vi si farà. arriverà.